Il problema di Vendola, che lui si presenta, sembra sempre quello giusto, dice delle cose abbastanza sensate, piace anche alla gente. Sì. Però lui piace stare tra pochi, capito? È una cosa più elitaria. Lui piace la nicchia, in pratica. Però la nicchia non basta, capito? Beh, dipende da che tipo di nicchia, Credo asilo. Allora, Cappa, l'orticaria del giovedì? No, avevi ragione tu, guarda. Oh. Mi sono spalmato una crema cortisonica dappertutto. E non mi è venuto niente, mi è venuta la tosse. Però l'orticaria è sparita. Certo, quella crema disinfiammerebbe anche il culo di un babbuino. Questo è molto divertente. Vabbè, questo è il giovedì decisivo. Per cosa? Per la mia orticaria? No, no, non per la tua orticaria, per i talk show. Ma ancora, ma basta! No, ma scusa, se l'Auditel ha gli stessi risultati degli scorsi giovedì, direi che Santoro può dichiarare fallimento. La fiction di Rai 1, Un passo dal cielo 2, ha avuto più del 25% di share, con picco finale al 27%, mentre Servizio Pubblico galleggia appena al di sopra del 10%. Ma quasi un passo terzo. Dal cielo 2, con chi è? Quello con Terence Hill, che non fa più il prete, si fa la guardia... Fa la guardia alpina. Non si fa la guardia alpina, no, fa la guardia alpina, poi si farà qualche. Ma non si fa nessuno. Comunque prete. È proprio. No, non è un prete, è una guardia alpina. Sei lui. Però è quella, è la fiction, quella lì, capito? Ecco. Che poi mi chiedo, scusa, perché non si chiama A un passo dal cielo? Cosa vuol dire un passo dal cielo? Resta il fatto che è il programma più visto in TV ogni benedetto giovedì che Dio manda sulla terra. Questo la dice molto lunga sul momento che stiamo vivendo. C'è la crisi, la gente ha paura, fugge la politica e i politici, si rifugia in cazzate rassicuranti come i telefilm sulle guide alpine. È facilissimo. C'è anche Katia Ricciarelli. Con Terence Hill. Sì. Che si piglia una cazzotta. No, vabbè, anche però. Comunque, quello allora sarebbe un buon motivo per vedere Un passo dal cielo 2. Katia Ricciarelli. Poi ci sono, dai, le bellezze dell'Alto Adige, no? Infatti, certo. Però parlano tutti italiano perfetto, gli altoatesini del telefilm. Anzi, anche un po' romanesco. Sono un po' strano. Oh, passamer Gewurztraminer, Erlandjäger, Ergurken. Un po' strana quella cosa lì. Hai l'aria di conoscerlo bene, però, questo Un passo dal cielo. Due, eh? Perché in effetti ho visto un po' di episodi. Due passi o uno? Un passo dal cielo, due, perché è la seconda edizione. Sì, certo. Però io ho visto qualche puntata della prima quest'estate, quando c'erano le repliche all'ora di pranzo. E mi sono appassionato abbastanza, soprattutto alle vicende di Vincenzo e Silvia, che alla fine della prima serie si erano giurati amore eterno e che adesso si apprestano a fare il grande passo del matrimonio. Come Vincenzo il carabiniere e Silvia è una zoologa, dai. No, Marco, mi chiami anche per nome. Beh, no, Vincenzo, come Marco. Perché, Silvia. Allora, Vincenzo è un tradizionalista, capito? È un carabiniere. Per lui il matrimonio è un punto d'arrivo, ecco, come te. La famiglia, i figli, capito? Invece Silvia, sai com'è Silvia, no? Ma non lo so, ma di cosa stai parlando? Ma Silvia è un po', come dire, è un ma po' così. Non fare gesti, cos'è? E poi a complicare le cose, plana sul lago di Braies un piccolo idrovolante guidato da Tobias, che è un nuovo personaggio ed è un collega di Silvia, uno zoologo. E Vincenzo, il carabiniere, geloso perché Tobias è un bellissimo ragazzo. Certo. E Silvia, come sai, è così. Ma quindi... basta con sti gesti, Drago. Basta. Cambiamo pagina. Stai dando il peggio di te. Anzi, mi hai fatto venire l'orticaria. Vedi, a forza di parlare della fiction. Ma non è possibile. Un passo dal cielo 2, due crema, passi dal cielo 1. Crema cortisonica. Alla faccia del cortisone. Vabbè, vedrai che l'aria dell'Alto Adige però ti farà bene, dai. Ah, sì. Mettiti qua al sole, guarda che bel paesaggio. Respira bene l'aria pura. Anch'io però se respiro forte è una cosa che non... Ma perché è un telefilm, non è mica vero. È in TV. Papà, papà, perché sei lì fermo impalato? Ho l'ictus. Papà? L'ictus? Che cos'è? È morto. Tra un anno saremo punto e capo. A tagliare così sono capaci anche i bambini. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco che sei ancora più vecchio, che sei ancora più vecchio. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco più vecchio di così. Tempo se ne presto finirà, ma adesso è ancora più presto, adesso è ancora più presto, adesso è ancora più presto, il giorno presto finirà, ma adesso è ancora più presto finirà. Le persone che chiedono asilo nido vengono sottoposte ad un esame che deve accertare se fuggono da situazioni di non libertà per loro pericolose, e allora diamo il diritto di asilo. Vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco che sei ancora più vecchio, che sei ancora più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco più vecchio di così. Chiede asilo. C'è aria di rivolta tra quegli eterni bambini come me che sono gli appassionati di fumetti. Ah sì, aria di rivolta, ho visto che sono manganellate tra poliziotti e studenti, ma non penso che c'entrasse con questo argomento. No, perché ogni anno Hollywood cannibalizza i fumetti. Ebbene, vedi, no? Sì. Escono i film con... lo so, questa è una tendenza. Cioè, era cominciata con Superman tanti anni fa, poi adesso mi pare sia... Ma questo cosa comporta? Che i veri fumetti rischiano di non uscire più. Marvel, DC Comics, sono in crisi. E come? Vendono meno. E certo. Non ho capito, il successo del film. Non lo so se vendono meno. Non è questo il punto, Drago. Chi se ne frega delle vendite? Ah no. Perché i film sono sempre sbagliati. Ah, è quello che ti fa. In che senso sono sì, sbagliati? Sì, perché non sono mai fedeli ai fumetti. Vabbè, un po' devono adattare. Tipo, fammi un esempio. Tipo che gli Avengers originali erano senza Capitan America, è arrivato dopo. Prima c'erano Ant-Man, Hulk o Hulk, Iron Man, Thor, Thor e Wasp o Wasp. Ok, ma in un film solo devi per forza poi sintetizzare queste avventure. Sì, non so, ma il film anni. Hanno fatto un casino, hanno mischiato diverse formazioni dei Vendicatori. Capito, ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Vabbè, ma la formazione del film non è mai esistita nei fumetti. Chi se ne frega? Ha fatto una sintesi, un miscuglio. Come mettere insieme la Vedova Nera, l'Uomo Falco e Capitan America? È un anacronismo, ma non funziona. Giuro che non so di cosa tu stia parlando. Il fatto è che quelli che vanno al cinema non conoscono i fumetti originali, capito? Capito che ti fa star male, è proprio questo, sei geloso del fatto geloso, che adesso al cinema vanno bambini, adulti che si esaltano cosa per le avventure dicendo? Dei fumetti, però non conoscono il fumetto originale. Ma certo, perché noi appassionati di fumetti siamo gelosi dei nostri supereroi, non possono sputtanarci tutti i nostri sogni facendo film bruttissimi e pieni di errori di supereroi sbagliati. All'inizio ero contento perché hanno cominciato a fare, dico, bello, fanno di nuovi film dei supereroi. Però adesso basta, dai. Adesso sono indignato. Vabbè, sono però, tutti sbagliati. Cappa, però, visti i successi di film come appunto I Vendicatori, credo che siamo solo all'inizio. Cioè, ogni anno ci saranno altri film tratti dai fumetti. Ma quali fumetti? Sono finiti i fumetti, li ha sfruttati tutti. Beh, allora creeranno dei supereroi che esistono solo al cinema e che non hanno origini nei fumetti di carta. No, vabbè, ma tu vuoi uccidermi ma così, Drago? Sto solo facendo delle supposizioni. Se io fossi di Hollywood, farei se così. Fossi, se sarebbe anzi, è l'inizio di un mondo da incubo. Ma adesso... Un mondo in cui il cinema prenderà il posto dei fumetti. Ma ormai, Drago, è già successo, capo, un incubo. L'hai detto tu che i fumetti vendono poco mentre i film battono tutti i record di pubblico, e quelli che vanno al cinema, ti ripeto, non conoscono i fumetti di riferimento. Vabbè, sai che cosa succederà? Che i nerd di tutto il mondo si rivolteranno nella loro cameretta. Come si rivolteranno? Come fossero morti. Ma sono praticamente morti i nerd, stanno sempre nella cameretta. Ma prima o poi si rivolteranno, usciranno dalle camerette e allora sì. Mancano 23 giorni alla fine del mondo.